dialogo quinto, raccontò Abu Huraira. Fu chiesto all'apostolo di Allah: cos'è il meglio dell'Islam? Rispose: il jihad. Gli fu chiesto: e dopo? Rispose: un pellegrinaggio eseguito alla perfezione.